Buonasera, buonasera a tutti. Speriamo di essere in diretta perché è la prima volta che sono alla regia, quindi abbiamo qualche piccolissima difficoltà tecnica. Sono le 9:01, siamo in diretta da Radio Alma, dagli studi di Radio Alma. Siamo in diretta, è un bellissimo lunedì sera, è il 31 di ottobre. Domani è festa perché tutti i santi, quindi ci godiamo questa serata in allegra compagnia. Siamo qui appunto in diretta. Gli studi di Radio Alma sono molto popolati e popolosi questa sera, siamo molto contenti di essere qui e in particolar modo, insomma, io ho lasciato la trasmissione l'anno scorso scolastico insieme ad Angelo e Carla. E riprendo quest'anno con due nuove compagne di viaggio, di cui una qui presente questa sera e invece una seconda non è potuta essere con noi perché beata lei è in vacanza dall'altra parte del mondo in posti molto molto belli, quindi le mandiamo un grande saluto e quindi con grande piacere annuncio, insomma, e vi presento Silvia che ci raggiunge questa sera. Sì, buonasera a tutti, grazie Cecilia di questa bellissima opportunità, sono molto emozionata, è la prima volta per me un'esperienza del genere e sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Silvia, vuoi dirci da quanto abiti a Bruxelles, giusto per far capire un po' il personaggio, insomma? Io sono arrivata ormai quasi 7 anni fa per un'esperienza che doveva durare soltanto poche settimane, 4 mesi, e invece mi ritrovo qui a festeggiare quasi 7 anni a Bruxelles, ma non c'è nessuna crisi in vista, non c'è nessuna crisi del settimo anno, no, sono super convinta della scelta. Beh, come molti in fondo, italiani che si trovano qui a Bruxelles, io per prima, insomma, siamo arrivati per 5 mesi di stage io e poi sono ormai 8 anni, ho già festeggiato i miei 8 anni qui a Bruxelles, quindi insomma. E adesso la radio. Sì, non l'hai mai fatta prima? No, mai, ma mi ha affascinato sempre moltissimo e quindi ecco, quando mi hai proposto questa avventura l'ho presa a piene mani, insomma. E quindi sì, insomma, sono qui da un po' di anni ormai, mi sento molto bruxelloise, quindi... Sei forse la prima persona che viene qui a Radio Alma italiana che sento dire che si sente bruxelloise. Ma sì, perché Bruxelles è molto accogliente, mi sento molto, molto a casa. Ah, vedi, che bella cosa. E poi invece quest'oggi abbiamo un aiuto qui alla regia. Abbiamo Alessandro che è venuto gentilmente a darci una mano alla regia, che adesso è un attimo impegnato con questioni tecniche. Ciao, buona serata a tutti. Eccolo qui, ha fatto la sua presenza. Abbiamo in studio anche la mia mamma che è venuta qui a Bruxelles a trovarmi e farmi un po' di compagnia. Allora le ho detto, dai, trasciniamola a Bruxelles. Buonasera, sono stata coinvolta in questa avventura di questa sera prima di ritornare in Italia, dopo una decina di giorni passata qui in questa piacevole città. Ecco, ed è stata la mia mamma una professoressa per tanti anni, si gode adesso felicemente la sua tanto meritata pensione. Ecco sì, è un piacere poter stare in... aver raggiunto questo traguardo della pensione che mi consentirà di venire a Bruxelles anche più spesso, sicuramente più spesso, e di stare più a lungo qui invece di fare quelle toccate fughe del fine settimana oppure delle vacanze. E invece così ogni tanto capiterò da queste parti. Ecco, a me fa molto piacere, se poi magari una volta vorrai capitare anche come ospite fissa, come ospite alla nostra trasmissione, avremo sicuramente di che discutere, questo è poco ma sicuro. Propongo di passare un primo brano musicale che vedo già selezionato da Alessandro, il nostro mitico aiuto regia in questo momento, per cui ci ascoltiamo i Dire Straits, Money for Nothing. Oggi che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E siamo ritornati sui colori dell'anima. Sono in piacevole compagnia questa sera e abbiamo un fantastico ospite con cui cominceremo a parlare dopo che insomma abbiamo fatto introduzioni, ci siamo salutati e tutto. E, Silvia, vuoi introdurre tu la nostra ospite? Sì, questa sera abbiamo deciso di parlare di teatro, ma abbiamo pensato di parlare di un teatro un po' diverso, e di teatro di improvvisazione. E abbiamo invitato qui Marta, che fa parte di una squadra di teatro di improvvisazione qui a Bruxelles. E la lascio così introdurre quelle che sono le attività della sua squadra di impro, se posso definirla così. Ciao a tutti, io sono Marta e sì, io vengo qui per presentarvi un po' e parlarvi un po' del teatro di improvvisazione. E, io sono qui a Bruxelles da 10 anni e sono parte di questo gruppo di improvvisazione teatrale in francese da 3-4 anni ormai. Il gruppo è un gruppo di ragazzi che fa parte appunto di una scuola e di un gruppo che si è creato ormai 5-6 anni fa, che si chiama l'Ampros, e che potete trovare sul sito www.impro.be. E noi facciamo improvvisazione teatrale in francese, quindi è un po' più, diciamo, locale come cosa. E quanti siete in un gruppo di teatro, nella vostra squadra, diciamo? Allora, noi siamo tre squadre, diciamo, che partecipano al match e agli spettacoli. E ogni squadra varia tra i 10, 12, massimo 15 persone. E, ovviamente poi i match sono fatti invece da due squadre che si confrontano e sono 6 giocatori ognuna. Okay. E più un arbitro e 2 assistenti. E per te come nasce la passione per il teatro? Hai cominciato direttamente con l'improvvisazione oppure hai avuto un percorso diverso? No, io ho iniziato all'inizio come attrice classica di teatro, quindi ho una formazione da attrice che ho fatto a Roma e ho fatto la scuola internazionale di teatro Circo a Vapore a Roma, e dopodiché ho voluto sperimentare un po', stanca del sistema, insomma, classico, canonico, shakespeariano del teatro, con una cosa un po' diversa che era appunto l'improvvisazione teatrale. A Roma è un pochino diversa, io facevo parte di quella scuola che si chiama Verba Volant, che segue meno, diciamo, le regole del match, che è una struttura più nord europea. In Italia c'è il match e c'è l'improvvisazione teatrale, che sono un po' distinte perché differiscono per dettagli poi. Ho capito. E il match, cioè qualcuno, per dare un esempio a chi non ha mai assistito a un match di improvvisazione, come vengono scelti i temi? Ad esempio, è un vero e proprio match nel senso sportivo, diciamo, del termine, per cui ci sono due squadre che si confrontano, c'è un arbitro e l'arbitro suggerisce, diciamo, più che altro impone, più che suggerisce, delle tematiche, delle tempistiche e il numero di giocatori, per cui all'inizio, all'entrata il pubblico riceve delle pantofole e dei fiori, e quando ci si siede, insomma, diciamo che ha questi due strumenti che sono il loro modo di comunicare consenso e dissenso nei confronti dell'arbitro e o dei giocatori. Si spera spesso più nei confronti dell'arbitro che dei giocatori, soprattutto quando c'è il lancio delle pantofole. E poi c'è appunto le due assistenti, e la tematica varia, può essere, viene dato un titolo, diciamo, in genere di fantasia, dopodiché può essere fornita o meno la categoria, Quindi può essere imposto, non lo so, la categoria alfabetica, per cui tutti i giocatori devono dire tutte le repliche in ordine alfabetico. Quindi se la persona inizia un'improvvisazione, quindi una scena, deve iniziarla con la lettera A, con una frase che abbia la lettera A come prima parola, e il secondo deve rispondere con la lettera B, e poi il terzo con la lettera C, e via dicendo fino alla fine. Quindi possiamo dire che il fatto di farlo in francese, insomma, è una sfida. Sì, devo ammettere, sì, è una sfida ed è abbastanza complicato, bisogna saper bene bene la lingua, insomma. Ma io propongo, mentre digeriamo tutte queste informazioni, che io mi sto facendo uno schema mentale, ma ti farò qualche domanda, perché per me, io che sono completamente nuova al teatro, insomma, non so se ho ben capito quello che, insomma, tutto quello che ci stai raccontando, quindi forse magari ti farò fare un passo indietro, ma prima propongo di ascoltare un altro brano musicale. Ho scelto in totale anarchia quest'oggi di ascoltare Il Carrozzone di Renato Zero. Eccolo che parte. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Colori dell'anima. Ed eccoci ritornati qui a parlare di teatro ma di teatro di improvvisazione. Allora io volevo chiedere alla nostra ospite, intanto, come per una persona che non ha mai fatto teatro, che non ha mai studiato, può avvicinarsi a questo tipo di forma artistica, insomma? Assolutamente sì. Anzi, ci sono tantissime persone che non hanno mai fatto teatro, ma hanno iniziato direttamente con l'improvvisazione teatrale, perché è anche una forma di sfogo, di stress, di divertimento. Ecco, ma come si improvvisa? Nel senso, perché io proprio non riesco proprio a immaginare. Allora, abbiamo capito delle regole, tipo appunto questi match che si possono fare. Sì, nel senso, ma vi allenate? Cioè, noi ci alleniamo tutte le domeniche, per esempio, con la mia squadra, tutte le domeniche dalle 7 alle 22, per esempio. E durante l'allenamento si fanno vari esercizi, perché si deve comunque creare un legame con le persone della propria squadra, perché l'improvvisazione è comunque basata sulla fiducia e sull'ascolto degli altri, perché, come dicevo, non c'è un testo, non c'è niente, non c'è nulla di definito se non la categoria, forse, e un titolo. Il resto è tutto completamente improvvisato. Cioè, ci puoi fare un esempio di un titolo di una situazione, insomma, che ad esempio durante un match l'arbitro potrebbe dire che le due squadre devono fare un'improvvisazione dal titolo Una domenica di fuoco, tempo di 3 minuti, numero di giocatori illimitato, e la categoria zone d'umore. La categoria zone d'umore, per esempio, vuol dire che il palco viene suddiviso in 3 zone: una zona è la rabbia, una zona l'amore, una zona la tristezza, e gli attori, mentre improvvisano, quindi sul palco, mentre provano, insomma, a costruire una storia, se capitano in quelle zone devono cambiare il loro umore rispetto alla zona dove sono posizionati. Molto interessante. E Marta, parlavi del fatto appunto che vi allenate una volta a settimana, comunque per 3 ore, immagino che questa sia un'esperienza abbastanza intensa anche da un punto di vista relazionale per i membri della squadra. Assolutamente, è fondamentale conoscere la propria squadra, appunto, e fare gruppo, nel senso che appunto ci si lancia un po' nel vuoto quando si sale sul palco, per cui si deve completamente avere fiducia nell'altro e sapere che non si viene abbandonati, perché se non c'è risposta rischi di Certo, e non c'è nessuno, siete tutti su un piano di parità, non c'è un leader. Sì, c'è soltanto un capo, diciamo c'è un capo squadra, ma più per una questione organizzativa, cioè quello che prende le presenze, che gestisce le perché noi abbiamo poi differenti coach che vengono, diciamo, ad allenarci, sono dei moduli. Okay. Quindi ad esempio il prossimo sarà con un'attrice belga che verrà a farci gli allenamenti, che saranno 6 allenamenti solo con lei, quindi è lui che prende i contatti anche per cura gli aspetti, esatto, pratici. Però a livello, diciamo, di organizzazione interna no, non c'è nessun, siamo tutti uguali. Bene, ho capito. E come farlo in francese rispetto al fatto di essere italiani? Essere un italiano, insomma, che vive qui, cioè a livello di nuance linguistiche, io immagino che passare da un'emozione all'altra già in generale mi sembra una cosa molto complicata, ma quando lo devi fare in una lingua che non è la tua lingua madre, no, effettivamente si rischia di passare forse da un... insomma di perdere un po' forse le sfumature o... Sì, questo sicuramente, cioè io mi rendo conto che nella mia lingua madre potrei dare molto di più, questo chiaramente, anche perché non c'è la stessa spontaneità che ci sarebbe magari nella tua, cioè le prime cose che ti vengono in mente le dici in italiano inevitabilmente, quindi è un po' questo il limite, il fatto che pensi in un'altra lingua, no? Quindi l'istinto parte da un'altra lingua. C'è da dire anche che ti lascia il tempo di approfondire altre cose, quindi magari più una gestualità, fai personaggi che ti costringono a essere più calmi o più riflessivi perché prendi tempo, quindi diciamo che per una persona come me che in genere è sempre molto veloce, che si getta molto nel caos del momento, aiuta molto a riflettere con un po' più di calma sul da farsi. Sì, è interessante questo aspetto di cui ci parli, mi sembra come se sei riuscita a trovare, diciamo, a far nascere da una frustrazione che comunque può essere quella linguistica della padronanza non perfetta della lingua francese, dalla frustrazione è nato comunque delle risorse, insomma, sei riuscita a trovare... Assolutamente, ti dà la possibilità anche di metterti un po' alla prova, anche io ammetto che all'inizio, la primissima volta, ho abbandonato miseramente perché uscivo tutte le sere col mal di testa, quindi dopo gli allenamenti era un incubo, perché poi ti manca un po' quello che è il background culturale, quella è un po' la parte un po' negativa, che loro fanno dei giochi di parole, dei riferimenti a dei personaggi della televisione belga che io ignoro. Certo, quindi, beh, chiaramente. Josephine Lange Gardien, non avevo idea di chi fosse per fare improvvisazione, ecco, teatrale. Noi non sappiamo chi sia. Ci sono gesti dalla regia di ma chi è Lange Gardien? Perché in effetti. Quindi quella... E tu come ti prepari? Come cerchi? Cioè, per esempio, è stato per te uno stimolo a informarti di più, a cercare di capire di più come funziona la società belga, quali possono essere? In parte sì, in parte penso che non ci sono delle cose che fanno talmente parte della loro cultura che da sempre le canzoni che canticchiano come da quando sono piccoli. Come può essere in Italia poi in fondo. Esatto, cioè l'altro giorno facevamo un'improvvisazione su un campo scout e loro canticchiavano una canzone che era l'Essentiel. Di cui non ho mai sentito parlare. Sai che forse l'ho sentita, ma mentirei se ti dicessi che sono convinta. E per loro erano tutti molto, cioè molto dentro la situazione, perché cantavano tutti questa canzone. Io li guardavo con un'aria un po' perplessa. Ecco. Ah, ecco. E invece dal punto di vista del pubblico, visto che comunque parliamo a degli ascoltatori che comunque parlano italiano, insomma, la consiglieresti come esperienza oppure pensi che la lingua potrebbe essere un limite proprio per questi riferimenti culturali? Come spettatore? Sì. Ma io come spettatore lo consiglierei soprattutto per chi vuole apprendere bene il francese, nel senso che a quel punto si entra veramente in contatto con la lingua nuda e cruda, come potrebbero trovarla al bar, a scuola o per strada, perché la situazione chiaramente è quella che può presentarsi in ogni momento. Okay. Quindi è un buonissimo esercizio per tutti quelli che veramente vogliono cogliere anche le sfumature, i modi di dire dei belgi, come si direbbe pour souche, è proprio questo che bisogna fare, insomma, immergersi in questi tipi di spettacoli. Capito. Se posso permettermi di fare un po' di pubblicità, il prossimo spettacolo, ad esempio, c'è sabato questo, quindi sabato 11 novembre, alle 20:30 al Centre Culturel d'Audergem, che si trova a Boulevard des Souverains. Ok. Un enorme centro culturale, il biglietto è 10 euro per tutti quelli che sono interessati, insomma è una bella esperienza anche solo andare a vedere che cos'è un match di improvvisazione teatrale. Adesso io e Silvia, che avevamo questo già in mente di farlo, creeremo tra oggi e domani la pagina Facebook della nostra trasmissione, insomma dei colori dell'anima, ma del nostro gruppo. E così cercheremo di svegliamo ancora il nome, perché manca il terzo elemento, però poi cercheremo di pubblicizzare comunque magari prima di chiudere anche la trasmissione, lo ripetiamo un'altra volta, così almeno sì. Anche le persone che magari sono più dure di comprendonio come me se lo potranno comunque annotare carta e penna e scrivere per venire a osservare a assistere a questo match di improvvisazione teatrale. A questo punto, prima di passare alla fase successiva, faremo passare un altro brano, che è The Get Down dei Marlene Kuhn. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E siamo ritornati dopo questa parentesi musicale. Ci sono spostamenti di cuffie, vedo, nella sala dei colori dell'anima. Io avevo, prima di passare di nuovo il microfono, io avevo una curiosità che volevo chiedere a Marta, se succedono mai situazioni in cui scattano attacchi di risa incontrollati, gli attacchi di ridarella, perché io credo, nel senso, se mi trovassi in una situazione, penso che spesso e volentieri mi verrebbe da ridere. Allora mi chiedo se ti sei mai trovata in una situazione in cui collettivamente vi siete ritrovati a ridere a crepapelle. Assolutamente sì, soprattutto quando sei italiana e padroneggi poco il francese e dici delle cose assolutamente abominevoli, per cui tutta la squadra inizia a ridere, oppure fai degli errori equivoci anche a livello sessuale, quindi da un lascer e lascer cambia tutto il senso di una frase. E ti è mai capitato, anche può succedere anche durante un match, oppure il tipo di concentrazione poi è diverso? Diciamo che succede meno, perché c'è una tensione diversa, nel senso che a quel punto c'è un pubblico, c'è la struttura dell'arbitro che comunque fischia i falli e dà delle penalità. Perché ci sono pure i falli? Assolutamente sì, è un match, proprio un match come una squadra di calcio, insomma, nel senso ci sono dei falli che vengono fischiati, delle penalità, si tolgono punti. Ma un fallo, per esempio, che cos'è un fallo? Un fallo può essere la rudesse, per esempio, cioè la maleducazione, se una persona entra in scena dicendo che si chiama Francesco e fa il prete, e la persona dell'altra squadra che entra, diciamo che nega completamente questo che la base dell'improvvisazione, dicendo no, ti chiami Francesco ma non sei un prete, te lo sei scordato, come prima frase, stai distruggendo completamente l'impianto che la persona ha creato, e questo è chiaramente un atto di rudesse e maleducazione. Quindi comunque ci sono dei principi di rispetto fondamentali, diciamo, nel contesto dell'improvvisazione, il rispetto del personaggio. Assolutamente, perché altrimenti la storia non avrebbe senso, non avrebbe credibilità, no? E a proposito di, appunto, di queste regole di interazione, mi chiedevo se l'improvvisazione un po' si possa associare a quello che è magari un gioco di ruolo, e se questo nella tua esperienza magari potrebbe essere utile o è utilizzato con i bambini o con i ragazzi molto giovani. Assolutamente sì, l'improvvisazione ha molto a che vedere chiaramente con i giochi di ruolo, perché impone chiaramente di assumere ogni volta un ruolo diverso, di inventarsi un personaggio, un accento, un lavoro, un legame con l'altra persona, e quindi questo sicuramente. e ha tantissimi vantaggi sia per i bambini ma anche per gli adulti, a livello sia per aprirsi, per diciamo lasciarsi andare quando si hanno magari dei problemi di timidezza. È molto molto utile perché si è costretti, diciamo, a forzare un po' la propria natura per lasciarsi andare, sì, ma anche forse recuperare un po' il controllo delle proprie emozioni, perché se si immagino che se si deve entrare in un personaggio così appunto senza la possibilità di prepararsi molto in anticipo, credo che la certo. Che il controllo delle proprie emozioni sia fondamentale. Certo, certo, ma appunto è molto, io lo trovo molto arricchente da tutti i punti di vista, perché intanto si fa un lavoro su se stessi, si fa un lavoro di gruppo con altre persone, si lavora molto anche sulla sicurezza di sé, nel senso che per poter entrare in scena e impiantare un'improvvisazione bisogna essere sicuri di quello che si dice e mai, mai, mai mettere in discussione ciò che viene detto. Cioè, se io dico che sono Francesca ed ho 22 anni, io sono Francesca e ho 22 anni, anche se la persona che entra dopo mi dice che sono sua madre, sarò una madre 22enne, cioè su questo non ci piove. Okay. Uno dei mezzi fondamentali è anche fare radio per togliere un po' di timidezza, io sono convinto di tutto ciò. Comunque, per mettere un po' di pepe a questa storia, abbiamo deciso di fare un match di improvvisazione teatrale adesso, voglio dire, perché aspettare domenica, facciamo 10 euro, no, facciamolo adesso che è gratis, insomma, facciamo così. E quindi abbiamo deciso, quindi adesso tu ti impersonifichi, facciamo così, il tema è una giornata allo zoo, attraverso gli occhi di un bambino, giocatori limitati e 2 minuti. Hai bisogno di un po' di tempo per prepararti o si fa così? No, ma potete partecipare voi? Certo. Giocatori eliminati in casa, okay. Io sono la mamma del bambino. Non me lo devi dire. No, quindi già Silvia devi già cambiare devi personaggio. Devi entrare nel personaggio, paf, e agisci, parli con la madre. Ok, quindi non devo dire chi sono. No, ok, scusa, quindi posso cambiare. No, adesso sei obbligata a cambiare. Cioè, è proprio. Ok. Bello qui, mamma. Guarda, ci sono gli elefanti. A me non piace. Uff. Sei sempre la solita guastafeste. Non mi sono mai piaciuti gli elefanti. Mamma. Quei due basta. Papà, allora, la lasciamo a casa la prossima volta. No. Tutte e due insieme a te, così facciamo a posto. Ecco. Così uno controlla l'altra, l'altra controlla l'uno, ok? Scusa, senti, io la prossima, io non esco più con te, questi qua che non sono neanche figli miei, per favore, questi qua io non li voglio più vedere, non esco più con te. Papà, adesso, ma la lasci a casa anche lei, per favore, lasciamo io e te. È una strega, facciamo qualcosa contro di lei. Sempre tirare in ballo questa storia che non sono figli suoi. Ma guarda che incredibile, non ascoltarla te, eh? Lucia, vieni con me, rinchiudiamo quella brutta antipatica nella fossa dei leoni. Sì, brava Carla, che bella idea. Vieni. Basta, questi marmocchi non li voglio mai più vedere. Io adesso vado in vacanza con Carlo. Tru. Sta aprendo la gabbia, vieni con me. Ci sei? Mi segui? Ti seguo. Shh, vai piano, senti. E se arriva il leone? E mangia noi prima di ma lei? No, perché io ho pensato a tutto. Ho nello zaino dei fantastici cosciotti di pollo. Guarda, non sapevi che le tigre e i leoni... tutto. Ma certo, le tigre e i leoni vanno pazzi per il pollo, come me. Oh. Non vorrei cambiare discorso, ma chi è Carlo qua? Carlo è... Carla! Carla, allora, sono no, io. Carla è lei. E lei è Lucia. Esatto, io sono Lucia. E Carlo è apparentemente l'amante della tua compagna. Addirittura, no, io sono sempre l'ultimo a sapere le cose, sapete. Anche in radio in un match improvvisato, sì. L'uomo è l'ultimo a sapere le cose, è una cosa proprio... Ho un po' abbozzato, stasera sono un po' in minoranza, quindi faccio un po' quello che fa finta di non sapere, insomma. Quindi, oh, com'è andata? Benissimo. Beh, diciamo che si vedeva la differenza, oserei, tra chi era, insomma... più abituato. Possiamo dire che è difficile. Possiamo confermare agli ascoltatori che è veramente complicato, perché poi soprattutto forse a noi manca anche un po' la mimica, ci guardavamo io e Silvia e ci veniva assolutamente, a me veniva assolutamente da ridere. Beh, c'è da dire in anche... più mi immaginavo questa scena veramente agghiacciante di due bambine che cercano di buttare nella gabbia dei leoni e una si è addirittura portata il cosciotto di pollo da casa. Ma quindi c'è la premeditazione. La cosa bella dell'improvvisazione teatrale è che puoi essere qualunque cosa e fare qualunque cosa, quindi anche i tuoi pensieri più reconditi possono venire realizzati in un'improvvisazione. Ma, ci vuole tantissima fantasia comunque, perché insomma quando uno immagino reciti, non so, Shakespeare, ci sono anche dei costumi, ci sono delle scenografie. In questo caso forse bisogna avere anche la capacità di saper tirare fuori i personaggi proprio. Diciamo che c'è bisogno di tanta visualizzazione interna, nel senso che secondo me bisogna non tanto avere fantasia, perché si può veramente fare una cosa veramente banale come andare una giornata allo zoo o cambiare un pannolino di un bambino, ma tutto è come rendere assurda una situazione, magari, cioè cambiare il pannolino se non lo sai fare diventa una cosa difficilissima, allora magari ti viene in mente di metterlo in lavatrice il bambino perché è il modo più rapido, non lo so, dico. Ecco, se volete questa, venite a casa stasera e vi faccio cambiare tutti quelli che volete, ok? Quindi passate dalla teoria alla pratica, poi altro che improvvisazione teatrale. Il bambino nella lavatrice rimarrà credo, non credo, una delle frasi storiche della trasmissione per noi quest'anno. La scriveremo sull'Ipse Dixi. Però no, sì, capisco quello che il mio usare la parola fantasia era proprio fare un riferimento al comunque la necessità di saper in qualche modo di saper immaginare, poi anche perché poi suppongo che quando poi c'è il pubblico bisogna riuscire a trasmettere, quindi il pubblico deve riuscire a vedere, no, chiaramente quello deve che essere, voi state sì, deve essere molto molto chiaro per te prima di tutto, cioè tu devi veramente visualizzare quello che stai facendo e creare i dettagli sono la cosa fondamentale, cioè se tu appunto dare un nome, creare un legame, sei mia sorella, sei mia madre, qual è il nostro obiettivo, perché siamo arrabbiate o perché siamo unite, tutti questi dettagli sono fondamentali per creare poi tutto interesse poi alla storia, perché se non c'è motivazione rimane una cosa un po' superficiale, no? No, grazie mille per tutte queste delucidazioni. Allora io approfitto, perché stiamo parlando di improvvisazione, per far passare un brano che a me piace tantissimo, cantato da una grandissima cantante jazz che durante un concerto a Berlino si dimenticò completamente il testo della canzone e fondamentalmente cantò per più di 4 minuti improvvisando. La registrazione credo che le valse pure un Grammy, un Grammy Award, quindi adesso con moltissimo piacere ci ascoltiamo Ella Fitzgerald che canta Mock the Night. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E siamo ritornati sempre in diretta sui colori dell'anima. Questa lunga chiacchierata ci è piaciuta moltissimo. Stiamo arrivando verso le sue fasi conclusive, quindi lascerei il microfono a Silvia per magari un paio di rapide domande. Sì, sì, sì, ho giusto un altro, un paio di curiosità, perché da come parlavi Marta mi sembra di capire che c'è un'organizzazione piuttosto strutturata nell'ambito dell'improvvisazione. Ci sono più scuole, ci sono, come è il panorama dell'improvvisazione? Allora, in Belgio ci sono, diciamo, tre grandi scuole che io conosca, che sono l'Ampros, questa di cui io faccio parte, poi c'è l'improvisation.b, www.improvisation.b, e FBA, che è la Fédération Belge Improvisateur Amateur, che è diciamo la più grande, la più importante, riceve anche dei finanziamenti a livello regionale, è veramente la struttura principale, è quella che organizza i tornei più grandi anche a livello mondiale, quindi quando si organizzano, perché si organizzano anche dei mondiali di improvvisazione teatrale, è l'FBA a cui fare riferimento, quindi per tutte le informazioni per chi volesse mai intraprendere basta andare su www.impro.be, che appunto è una scuola un pochino più piccola creata dai fratelli Doms qui a Bruxelles, oppure l'FBA, che è una struttura molto molto più grande, che conta molte molte molte più squadre chiaramente, ed è diciamo appunto più organizzata, lì ci sono delle squadre un po' più fornite di anche persone, che attori, certo, importanti, diciamo, persone che fanno questo di mestiere. E un'ultima curiosità riguarda la figura invece dell'arbitro, che un po' ci incuriosiva durante la pausa musicale. E, come la definiresti? È una, tra virgolette, una carriera a parte o si costruisce così? Così si costruisce di pari passo, nel senso che un improvvisatore può decidere di voler essere il cattivo della situazione e voler provare l'ebbrezza dell'insulto gratuito da parte del pubblico o della ciabattata gratuita, e quindi diciamo che appunto è una specializzazione, diciamo, della base degli improvvisatori, che quando si è un po' più sperimentati, quando si fa improvvisazione da un po' di anni, si può chiedere appunto di iniziare a provare a fare l'arbitro, e quindi si inizia facendo l'assistente e poi magari provando a fare l'arbitro e vedendo come va. Okay. È un po' come i calciatori, a fine carriera vanno a fare l'allenatore. Esatto. È la stessa cosa succede anche per gli improvvisatori teatrali. Esatto. E non poteva mancare un riferimento al calcio, ovviamente, da parte di un uomo perlomeno italiano. Beh, qualsiasi sport, voglio dire. No, è vero, assolutamente, anche perché insomma sì, immagino che sia un ambito nel quale comunque bisogna conoscere, insomma. Beh, bisogna conoscere bene la struttura. Non ci si improvvisa, diciamo che non ci si può improvvisare arbitri. O non ci si può improvvisare improvvisatori. Anche, e senti un'ultimissima cosa prima di rapidamente, prima di passare alla domanda canonica sul colore da dare alla puntata, esistono codici di abbigliamento? Io faccio adesso la parte di quella che pensa a tutto. Allora, per gli allenamenti si deve essere vestiti di nero. Per gli allenamenti, nel senso che si deve non si deve portare niente che possa essere indicativo, dare, suggerire una caratteristica, quindi diciamo pantalone nero di base e maglietta nera possibilmente, con scarpe nere. Ok. Tutto il resto poi durante i match si ha la maglietta della propria squadra, per cui ogni squadra ha un colore, ad esempio i samurai avranno il blu, i vichinghi hanno il rosso, e quindi di conseguenza avranno ognuno la maglietta del proprio colore, ma è tutto, non si possono utilizzare accessori esterni, tutto quello che viene rappresentato deve essere al massimo mimato, non si può neanche utilizzare uno sgabello, niente. Ma i colori, ecco, i colori delle squadre vengono stabiliti il giorno del match? No, sono predefiniti? Da noi sono predefiniti, cioè okay. Sono le magliette delle tre squadre, ogni squadra ha le sue magliette. Ok, perfetto. Poi gli altri fanno, insomma ogni squadra poi farà diversamente probabilmente. Adesso arriviamo alla domanda di rito, perché insomma la nostra trasmissione, come ben sapete, si chiama I colori dell'anima. E abbiamo l'abitudine di chiedere ai nostri ospiti ogni volta che, insomma, quando vengono da noi, di dare un colore alla puntata. Quindi di dare un colore, ti chiedo in questo momento di dare un colore a questa puntata sull'improvvisazione. Non lo so, mi viene in mente un bel arancione fluo. Ecco, l'arancione fluo credo che sia quasi, è molto innovativo, quindi sono molto contenta che non sia uscito il solito blu o azzurro. No, l'arancione perché è bello allegro, ma un minimo agitato, un po' come eravamo stasera. come prima puntata, però devo dire, Silvia, che sei una naturale della radio, assolutamente, quindi sono molto contenta, insomma, di fare questa esperienza con te, e sono molto contenta di aver avuto, per questo rientro inverno 2016, di aver avuto uno studio così pieno, quindi. Ed è solo l'inizio, direi. È solo l'inizio. Tra un po' porteremo taralli e canteremo all'interno dello studio. E quindi grazie mille. Allora io ringrazio, perché è quasi, insomma, il momento di salutarci. Allora io intanto ringrazio Silvia. Grazie a te, grazie a voi tutti che ci avete ascoltato. Ringraziamo Alessandro che è venuto a darmi una mano alla regia mentre io ero presa da attacchi di panico, perché era la prima volta che lo facevo, quindi grazie di cuore. Ah, non c'è di che, avec plaisir. ritornerò, penso, quando andrai in onda tu con Rosanna, così insomma, per continuare nel mio processo di apprendimento. Ringraziamo mia mamma che è nell'ombra e che assolutamente non vuole più dire nulla, ma noi mi sono molto divertita, devo dire la verità, ho imparato tante cose che non conoscevo assolutamente e quindi sono felice di essere stata qui presente. Grazie, e ringrazio mille Marta di queste informazioni che ci ha dato. Ma soprattutto grazie Marta. Vuoi ripeterci rapidamente dove sarà il prossimo match? Il prossimo match è il 5 novembre, quindi sabato prossimo, alle 20:30 al Centre Culturel d'Audergem a Boulevard des Souverains, alle 8:30, biglietto 10 euro. Perfetto, grazie mille. Grazie Silvia, abbiamo la missione di creare la nostra pagina Facebook in modo tale che possiamo sponsorizzare questo match di sabato prossimo. Vi ringraziamo tantissimo per averci seguito e come ultimo pezzo musicale ho scelto Tu che sei parte di me di Pacifico con Gian Mannanini.